sol colpo voglio veder puniti un rival, una ingrata ed un superbo. Baia seti d'asteria siam trascinati alle mie pezze, se può venga Andronico e miri i nostri scorti, se poi tal piace o